2024 di Enrico Pagliarini. Puntata dell'11 e 12 settembre 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it. Questa è l'ultima puntata della versione estiva di 2024, dalla prossima settimana torneremo in onda per un'ora al sabato pomeriggio a partire dalle 16. Come sempre vi ricordo che questa puntata sarà disponibile attraverso il nostro servizio podcast, quindi potete scaricare il file MP3 della nostra trasmissione attraverso il nostro sito internet oppure attraverso un software capace di gestire il servizio podcast, potete scaricare settimana dopo settimana il file della nostra puntata. Grazie oggi a Carmelo Lauricella in regia, responsabile anche per il podcast. Iniziamo con una notizia che potrebbe diventare una cattiva notizia per i consumatori che sono abbonati ad un servizio di telefonia fissa o di connettività internet. L'autorità per le telecomunicazioni ha dato il via libera all'aumento delle tariffe di unbundling, questa strana difficile parola che è di fatto il canone che le aziende telefoniche alternative pagano a Telecom Italia per utilizzare la rete dell'ex monopolista. Se parliamo ad esempio di internet, in molti casi il servizio ADSL fornito da un operatore diverso da Telecom prevede il passaggio su una parte di infrastruttura di Telecom, cioè il cavo di rame, che è obbligata per legge ad affittare a tariffe stabiliti dall'autorità. Per il 2010 il valore è di 8,70 euro al mese, che salirà nel 2011 e 2012 rispettivamente a 9,14 e 9,48 euro al mese. Gli aumenti dovranno però essere valutati dall'Unione Europea. La notizia potrebbe tradursi in aumenti dei canoni di abbonamento per le ADSL, il che non è certo positivo per la diffusione di internet. Molti esperti dicono che per diffondersi internet servirebbero anche prezzi in calo. Critici naturalmente sono gli operatori alternativi che in una nota scrivono: la decisione dell'autorità rappresenta un significativo passo indietro nel processo di liberalizzazione del mercato della telefonia fissa e, se confermata, avrà gravi ripercussioni sull'intero mercato e sui consumatori italiani in termini di aumenti dei prezzi, minore concorrenza ed innovazione. La decisione dell'Agcom, quindi dell'autorità, scrivono gli operatori alternativi, rappresenta un forte disincentivo per Telecom Italia a investire sulla nuova rete in fibra ottica, rispetto di quanto dichiarato, aumentando la profittabilità della vecchia rete in rame. La voce che sentite arriva dalla California ed è quella di Marissa Meyer, che è responsabile dei nuovi prodotti della User Experience di Google. Dice: pensiamo sia possibile fornire ai consumatori un modo più veloce di fare ricerche sul web e per questo Google ha introdotto in settimana, con una lunga conferenza stampa, Google Instant. Google Instant actually gets queries and gets your search results as you type. In questo modo i risultati delle ricerche vengono mostrati in modo dinamico mentre si digita la parola o le parole da cercare. Un servizio da provare, disponibile nella maggior parte dei casi. In alcune situazioni, ad esempio se avete un firewall o avete alcuni problemi di connettività, magari una rete non molto veloce, questo servizio non è disponibile. Per parlare di motore di ricerca, perché questi servizi di ricerca sono sempre più importanti, è con noi Nereo Sciutto, che è presidente di Web Ranking. Bentornato a 2024. Grazie. Voi vi occupate a Web Ranking di ottimizzazione per siti internet nei confronti di motori di ricerca. Detto meglio rispetto a quanto ho detto io, di che cosa vi occupate? Interessante. Cerchiamo di far sì che tutte le cose che le aziende, i privati nei propri blog, le persone, anche il mondo della politica, qualsiasi informazione o cosa che qualcuno voglia pubblicare in rete sia entri facilmente dentro gli archivi dei principali motori di ricerca e possa essere quindi trovata facilmente. In pratica ci sono tantissime persone o aziende che parlano del medesimo argomento e il motore di ricerca della situazione ci fornisce un elenco, un ranking, una classifica, mettendo nelle prime posizioni, quindi di fronte al naso del nostro utente, il nostro navigatore, e quelli che secondo lui sono i siti più coerenti con la ricerca che ho fatto, più la risposta migliore che lui può fornire. Il nostro lavoro è anche quello di

Però in questo momento abbiamo questo incontro tra domande e offerta, fra chi parla e chi ascolta, che è mediato da un soggetto che è privato e ha un modello di business. Quindi per quanto lavorino bene e noi siamo contenti del fatto che ci siano, perché servono, è importante comunque tenere in considerazione il fatto che noi dobbiamo fare i conti con loro sempre, sia certo, che lo facciamo per svago che per lavoro. Quindi stiamo di fatto consegnando buona parte del dibattito ad un soggetto privato e soprattutto dei computer. Purtroppo sì, alla fine sono degli algoritmi, perché non sono vere le voci attraverso le quali qualcuno intanto dice: ma sono stato penalizzato, mi impediscono di essere trovato, perché in realtà sono algoritmi. Tendenzialmente era il discorso che facevamo prima: chi si occupa oggi, anche se ha una voce che normalmente nella vita reale sarebbe più bassa, di costruire un proprio sito, una propria pagina di comunicazione che sia più conforme ai gusti dei motori di ricerca di Google in primis, si fa sentire di più di tutti gli altri. Quindi è in questa guerra Davide contro Golia, e in cui la politica sta ancora facendo un po' fatica a capire come funziona quella di casa nostra, e la voce di tante persone su internet, anche il caso Beppe Grillo è una di queste, si fa sentire molto di più che nella vita reale, perché è più bravo a capire come funziona questo strumento e a farsi digerire dal motore di ricerca. Bene, io ringrazio Nereo Sciutto per essere stato con noi. A presto. Grazie a voi. Adesso per noi c'è una breve pausa, riprendiamo tra poco, parleremo di telefonia mobile tra un minuto. La seconda parte di 2024, ripartiamo da una notizia arrivata alla fine della settimana. Dal prossimo autunno, dal 21 settembre, Nokia avrà un nuovo amministratore delegato e per la prima volta non sarà un finlandese a guidare l'azienda, fondata nel 1865, la cui attività si è focalizzata sulla telefonia cellulare dagli anni 80. Il nuovo amministratore delegato si chiama Stephen Elop, 46 anni, canadese e finora capo della divisione business di Microsoft. Prenderà il posto di Olli-Pekka Kalasvuo, chiamato dagli amici o dagli addetti ai lavori OPK dalle iniziali, da mesi sotto pressione per risultati non brillantissimi e anche poca chiarezza nelle strategie, soprattutto nel segmento degli smartphone. Ne parliamo con Carolina Milanesi, che è responsabile mondiale delle ricerche nel settore dei terminali mobili, i mobile devices, all'interno di Gartner. Bentornata 2024. Un piacere, grazie. Siamo di fronte ad una vera svolta nella, potremmo anche allargare il quadro, alla strategia, alla storia di Nokia, o difficile fare un'affermazione così forte? Sicuramente un dato importante è che per la prima volta c'è un capo che non è finlandese. Mi viene in mente un po' la Sony, quando decise che per la prima volta non doveva essere un capo l'amministratore delegato giapponese, ma scelse un'altra strada. Siamo di fronte a una vera svolta? Ma secondo noi sì. Noi abbiamo sempre detto che nel momento in cui Nokia voleva far vedere che erano seri per quanto riguardava il cambiamento, avrebbero preso a capo della loro compagnia un non finlandese, e scegliere un CEO che viene dal Nord America è sicuramente un segnale che il software, i servizi, l'internet, questi sono i punti chiavi per vincere nel futuro, e prendere qualcuno che è più vicino all'America, dove tutti questi fattori sembrano svilupparsi prima che non in Europa, è sicuramente una cosa importante. Alcuni critici hanno subito fatto riferimento a Microsoft, al fatto che questo nuovo amministratore delegato venga da Microsoft, che negli ultimi anni non sta certo ottenendo grandi successi nel mercato della telefonia mobile. Può centrare qualche cosa? Ma anche noi siamo un attimino in sospeso, come dicevi tu, per quanto riguarda una decisione su perché hanno preso questa persona, perché sotto alcuni punti di vista la Microsoft e Nokia hanno simili problemi, hanno problemi nel mondo della user interface, quindi dell'interfaccia, diciamo, dei telefonini e della parte software del telefonino. Questa è la parte cruciale per Nokia, che devono sicuramente cercare di migliorare per così chiudere un pochino il valco che c'è tra loro e iPhone piuttosto che Android. Però se guardiamo questa decisione più a lungo termine, puoi vedere prima di tutto che lavorando a Microsoft ha un'esperienza di un'azienda grande, non tante persone che ci sono sul mercato che sono disponibili a capire la complessità di un'azienda come la Nokia. E quindi arrivando da Microsoft questo senz'altro aiuta. E la seconda cosa potrebbe essere un discorso di dove la Nokia vuole spostarsi, specialmente con una strategia intorno a Migo, la loro nuova piattaforma, e guardare al di là degli smartphone, quindi guardare ai tablet piuttosto che ai netbook. E lì ovviamente l'esperienza Microsoft aiuterebbe molto. Noi normalmente ci lasciamo un poco trascinare dai trend un po' tutto il mercato e guardando ai trend effettivamente si vedono queste grosse corse, queste corse veloci che stanno facendo i concorrenti di Nokia e in altri ambiti anche di Microsoft. Prendendo le due aziende da sola, va pur detto che sia Microsoft che Nokia rimangono numeri uno nel settore. Però guardando appunto i trend, voi dite che nel giro di pochi anni, 2, 3, 4 anni, Android, guardando al mercato della telefonia mobile, potrebbe diventare, se non il numero uno, fare una seria concorrenza al sistema operativo che attualmente viene adottato da Nokia, cioè Symbian. Poi vedremo se ci saranno dei cambiamenti da questo punto di vista. Per quale motivo voi puntate gli occhi e puntate il dito su Android in modo particolare? Guarda, semplicemente perché ci sono così tante aziende manifatturiere che usano Android e quindi avrai un volume che viene dal fatto che Samsung, Motorola, HTC, Sony, Ericsson, LG, più i cinesi, Huawei, ZTE tra poco, ma anche quelle non brand cinesi che fanno dei telefonini che sembrano telefonini delle marche primarie, arriveranno sul mercato con decine e decine di telefoni diversi. Questa è la ragione principale e semplice per cui Android crescerà così tanto. E dalle vostre previsioni che avete rilanciato questa settimana, non sembra invece crescere molto iPhone, il sistema operativo di Apple. Per quale motivo? Ma sia iPhone che RIM hanno crescita di volume, però il mercato sta crescendo, il mercato totale, molto molto rapidamente, quindi si trova in un mercato che quest'anno entrò intorno ai 270 milioni di pezzi, che arriverà intorno agli 800 milioni di pezzi nel 2014, quindi per mantenere stabile il market share il volume crescerà moltissimo per queste aziende. Però parli sempre di un'azienda per un sistema operativo a prezzi che non sono quelli che può fare una Nokia con Symbian, che arriva anche a $50-70. Sì, i numeri a cui tu facevi riferimento sono relativi al mercato degli smartphone, giusto? Corretto. Il mercato invece della telefonia mobile potremmo dire che sfiora il 1,5 miliardi quest'anno? Sì, quest'anno siamo ben al di sopra del 1,4 milioni. Che è incredibile, insomma, 1,4 miliardi di telefoni venduti in tutto il mondo, quindi un mercato incredibile. Un'ultima domanda sui sistemi operativi, noi continuiamo, anche perché al momento non vediamo altre proposte sul mercato, continuiamo a dire che Nokia è legata al sistema operativo Symbian. È possibile vedere un cambiamento di strategia verso Migo, che è la piattaforma che stanno sviluppando i finlandesi assieme agli americani della Intel, ma anche verso altri sistemi operativi? È addirittura ipotizzabile pensare ad altri sistemi operativi per telefoni Nokia? Guarda, senz'altro Migo ha una parte importante nella strategia della Nokia per quanto riguarda la fascia alta dei prodotti, dagli smartphone ai tablet ai netbook. Se quello che stai cercando di dire tra le righe, pensiamo a un discorso di Microsoft piuttosto di Android, io direi proprio di no. per Microsoft, perché a dire la verità non vedo che cosa possono guadagnare, perché comunque Microsoft anche con Windows Phone 7 anche loro stanno cercando un po' di recuperare il tempo perduto, no? E per quanto riguarda Android invece no, semplicemente perché con Android hai tutto l'ecosistema del Google, che sarebbe in concorrenza diretta con quello che Nokia sta cercando di fare con Ovi. Quindi un'apertura è comunque una, diciamo, un'offerta alternativa. Sì, esatto, e poi bisogna anche tenere in considerazione che, come dicevo prima, la forza di Android è che ci sono così tante aziende che supportano questa piattaforma. Nokia come leader di mercato non può avere una strategia che è come quella degli altri. Sì, diventerebbe uno dei tanti, insomma. Esatto. Bene, io ringrazio Carolina Milanese per essere stata con noi, a presto e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Ricordo che Nokia la prossima settimana presenterà nuovi terminali a partire dall'atteso N8 al Nokia World che si terrà mercoledì a Londra. Sempre a Londra anche HTC annuncerà una serie di nuovi terminali con sistema operativo Android. E così concludiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie ai nostri tecnici, oggi Carmelo Lauricella, tra poco sarà disponibile il podcast, la nuova puntata in formato MP3. Grazie anche a voi per la vostra attenzione, torniamo la prossima settimana, la prima puntata della nuova stagione di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, grazie anche ad Anita Panizza in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, scritto in cifra 2024, e radio24.it. Appuntamento sabato alle 16 su Radio 24. You are disconnected.